gioia del Signore è la mia forza oggi. Anche nella prova resto in piedi e vivo. La tua parola illumina ogni mio passo. Riempi il mio cuore della tua gioia. Sono pieno di gioia, sono pieno di gioia. La gioia del Signore vive in me. Sono pieno di gioia, sono pieno di gioia. Nella tua presenza il mio cuore gioisce. Mi fai conoscere il sentiero della vita, davanti al tuo volto la gioia cresce, piaceri eterni. Sono alla tua destra, la mia anima esulta e ricorda la tua bontà. Anche se le lacrime vengono per un tempo, la tua gioia ritorna come il sole nascente.